Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, sono le 13:34 minuti. Contro il crollo della spesa statale per il settore della cultura c'è una mobilitazione nazionale il 26, 27 e 28 marzo. Saranno coinvolti teatri, cinema, musei, luoghi di cultura. Si conclude a Reggio di Torino con un incontro pubblico tra denunce e proposte. Sapete che già da lunedì è iniziata questa maratona di Radio 24 che coinvolge servizi ai giornali radio, programmi in cui cerchiamo di spiegare che cosa accade soprattutto nel mondo della cultura e del teatro. Oggi reportage su Italia alla cultura e al teatro nei piccoli comuni di Cristina Carpinelli. Quando i lavoratori della Scala manifestavano per Italia la cultura, raccontavano una parte di crisi che a pioggia sta colpendo tutto il settore, della condizione grave in cui versano i grandi teatri e sullo stato di istituzioni culturali del nostro paese abbiamo ampiamente parlato. Non si parla invece abbastanza di quanto questa pioggia di tagli influisca sul nostro vivere quotidiano. Localmente i comuni, avendo a disposizione sempre meno soldi, stanno cercando di investire su prodotti che facciano cassa. Spesso però fare soldi non è il requisito richiesto alla cultura. Per chi lavora in questo settore il dilemma è un altro, e cioè come fare a vivere dopo gli ulteriori tagli alla cultura che anche nei piccoli centri stanno creando chiusure di teatri, cinema, scuole civiche di musica. Enrico Bertolino è un comico che gira molto anche i teatri delle piccole città d'Italia. Il posto è presto fatto, si vede, io lo misuro nel mio universo, cioè per il mio osservatorio, dalla difficoltà e dalle chiusure dei teatri. Quando un teatro chiude, secondo me dovrebbe essere lutto cittadino, perché i teatri sono le ultime enclave dove le persone possono andare serenamente ad ascoltare chi vogliono o contestare. Ora sembra di essere nelle catacombe. Io lo dico nel teatro: voi siete gli ultimi cristiani o i primi cristiani o gli ultimi, cioè quelli che si nascondono nel teatro per ascoltare delle persone che parlano. Il problema è che si sente dire a livello governativo e a livello anche nazionale che con la cultura non si mangia. Allora io suggerisco: provate con l'ignoranza, vediamo con l'ignoranza dove andiamo a finire, perché se con la cultura non si riesce ad arrivare da nessuna parte, con l'ignoranza dove arriviamo? Si tratta di tagli che colpiscono soprattutto i giovani, che non hanno la possibilità di farsi ascoltare e di crescere. I loro sacrifici di tempo, di lavoro, di spese non vengono ripagati. Ed è un peccato. Lo ha detto il maestro Accardo. E guardate che questa non è una perdita da poco, perché la musica, ad esempio, può distogliere le persone dai drammi della vita. Eppure i tagli si muovono inesorabili. La Civica Scuola di Milano, ad esempio, era un'istituzione riconosciuta a livello europeo fino a qualche anno fa. Oggi fa molta fatica e molti nomi di rilievo sono stati costretti ad abbandonarla per ingaggi all'estero. Italia e la cultura ci ricadranno addosso, dice Claudio Trottar, manager di eventi musicali di portata storica e, per intenderci, la persona che ha portato in Italia Bruce Springsteen. È evidente che ci sono alcuni eventi che non si fanno più in Italia, alcuni festival, alcune rassegne, perché vivevano soprattutto su contributi sempre decisamente marginali rispetto a quelli che vengono erogati, che ne so, per il piccolo teatro o per la Scala. È evidente che complessivamente il desiderio, la voglia di rischiare, di fare delle cose sperimentali, di dare dello spazio a degli artisti nuovi, giovani, che si siano italiani, europei, internazionali di qualsiasi natura, diventa sempre più complicato, perché si respira non è certamente quella di una positività verso l'arte, verso la cultura, verso lo spettacolo, verso l'entertainment, ma si vive esattamente il contrario. E secondo lei questo quale prezzo avrà? Ma dipende molto anche dalla capacità degli operatori di non adeguarsi a quelli che sono dei stilemi volgari e banali imposti dalla televisione, imposti dagli show televisivi di varia natura, che vendono e utilizzano questa parola talento in maniera decisamente sbagliata, e invece continuare a fare delle cose di qualità. È evidente che in altri paesi si vive una dimensione completamente diversa. In altri paesi europei occidentali ci sono finanziamenti, ci sono strutture pubbliche che sono utilizzate per la musica, ci sono strutture pubbliche dove si può fare musica dal vivo, dove si può ascoltare musica, dove si può studiare musica, e quindi è tutto un ciclo molto più positivo che crea lavoro. Si tratta di movimentare e fare qualcosa che serve comunque a vivere meglio, perché la musica aiuta a vivere meglio e che soprattutto anche dà lavoro, speranza e futuro. Tra l'altro l'Italia è una nazione, insomma non devo dirlo io, molto strana, è una nazione dove in provincia succedono tantissime cose, ma tantissime cose di grandissima qualità. È evidente che chi vuole fare qualcosa deve stare molto più attento, purtroppo anche proprio per un meccanismo assolutamente perverso, essendoci meno attenzione per le cose di qualità e meno possibilità per le cose di qualità, magari si perde un po' per strada il pubblico. Che i ragazzi non abbiano piazze lo dice anche l'ARCI, nella persona di Carlo Testini, responsabile della cultura ARCI. Noi abbiamo 1.200.000 iscritti, più di 5.000 circoli, associazioni sul territorio, ovviamente che fanno cose anche molto diverse tra loro, quindi insomma non sono tutti circoli che fanno musica o teatro o quant'altro, ma una buona parte sì. Purtroppo negli ultimi anni, con la crisi dei bilanci degli enti locali dovuti ai tagli e ai trasferimenti da parte dello Stato centrale, i vincoli di bilancio dovuti al patto di stabilità con i comuni, le risorse disponibili per le attività culturali e le politiche culturali sul territorio si sono drasticamente ridotte. Sono veramente moltissime difficoltà, soprattutto ad organizzare rassegne, festival. Infatti negli ultimi tre anni, 2008, 2009, 2010, c'è stata una diminuzione di almeno il 40% dei festival estivi legati per esempio alle discipline artistiche più innovative. Ad esempio quali? Per esempio le musiche legate a street art, piuttosto che la musica elettronica, che non è appunto la musica legata solo ai DJ, ma è appunto produzione di musica elettronica multidisciplinare, perché poi sono occasioni per intrecciare discipline musicali con quelle artistiche, visuali e quant'altro. Gli enti locali sono costretti a dirottare una parte di risorse che prima venivano utilizzate anche per sostenere le produzioni culturali del territorio, per sostenere invece i grandi enti lirici e i grandi teatri. Sono talmente pochi dunque i soldi che lo Stato ha stanziato che dicono una cosa chiara: si vorrebbe che arte e cultura vivessero solo dei loro incassi. Ma come avete sentito, tutto questo non è possibile, perché l'arte sperimenta, azzarda e non può muoversi solo pensando alla cassa. Prima dell'ultimo congelamento, le risorse per la musica erano scese da 56 a 35 milioni, per la lirica da 196 a 122, per la danza da 9 milioni a 5, per il teatro da 67 a 42 e per il cinema da 76 milioni a 47. Ora dovranno tutti tagliare del 10%. Significherà, ma in città già se ne parla, ad esempio di tagli a Cinecittà Luce, alla Mostra di Venezia, al Centro Sperimentale, alle opere prime e seconde. Anche la RAI sta delocalizzando le fiction in Brasile e Europa dell'Est pur di risparmiare. Però non si spende soltanto. Ad esempio il Reggio di Torino versa all'anno 15 milioni di euro allo Stato in contributi e tasse e ne riceve 10. Chi lavora nei teatri ha contratti incredibili, li chiamano atipici e sono ingaggiati così il 50% dei lavoratori del settore, tutti senza uno straccio di tutela. L'età media va dai 30 ai 49 anni. Ci sono circa 250.000 artisti e professionisti di alta specializzazione ai quali vanno aggiunti oltre 140.000 tecnici. E l'indotto arriva fino al turismo. Far crollare la cultura, dunque, anche quella locale, significa distruggere un sistema più complesso di quello che crediamo. La situazione sta creando non pochi disagi. I lavoratori del Reggio di Torino si sono presentati alla conferenza stampa per i Vespri siciliani con una bara avvolta nel tricolore e sono a rischio di chiusura il Carlo Felice di Genova e il Comunale di Bologna. Tremano i festival anche per via dei tagli e trasferimenti locali. Al Festival della Letteratura di Mantova, ad esempio, andrà il 50% delle risorse dell'anno scorso. Che ore, Bene, grazie a Cristina Carpinelli per questo reportage su Italia la cultura. Italia in controluce termina qui. Cercateci su Facebook, Twitter. A domani 6:30, Radio 24.